9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Ed eccoci qua in questa seconda puntata che comincia come ieri con The End, This is the End, i Doors. Ricordate quelle prime suggestive immagini con cui cominciava? Ve lo ricordate che film era? Un grandissimo film di Coppola. Era Apocalypse Now. E noi in questi giorni, finché l'Italia non troverà un nuovo equilibrio, mettiamo questa canzone ipnotica, una canzone del 66, Jim Morrison, perché The End è, per quanto lunga, travagliata, dolorosa, complicata la parola da usare dopo 17 anni, non è una liberazione, è un travaglio, perché purtroppo mai avrei detto, per me che sostengo il diritto alla primazia della persona, del mercato eccetera, di dover associare il nome di Silvio Berlusconi, del suo centrodestra, a questa che è una delle più gravi crisi dell'Italia, a cui il nome dell'Italia venne associato, perché siamo diventati la fonte di contagio numero uno nel mondo. Tutti i giornali internazionali aperti con l'occhio all'Italia che dicono fermateli, metteteli in condizione di non nuocere. Non era mai successo. Tante volte l'Italia ha chiesto nel secondo dopoguerra, cappello in mano, gli aiuti, tante volte non solo nell'immediato dopoguerra perché eravamo in ginocchio, ma poi negli anni 70, nel 74, nel 76, nel 79, fino al 93, tante volte l'Italia ha dato in garanzia addirittura le riserve auree chiedendo i denari agli americani, al fondo monetario e ai tedeschi, ma mai eravamo diventati fonte di contagio temuta dal mondo come in questi giorni. Allora usiamo i Doors. Questa è una canzone per chi la ama come me, che evoca tra l'altro tante cose. È una canzone tosta per chi se la ricorda. Finisce anche con un attacco simbolico a tutti i tabù intoccabili della famiglia. Si dice che vuole ammazzare il padre, si dice che vuole fare cose innominabili alle madri, appunto perché è l'espressione di quando si perde i punti di riferimento, ci si smarrisce di fronte a una realtà che sopravanza. Questo è il rischio vero dell'Italia. E Apocalypse Now la uso come immagine alla fine di queste parole evocative iniziali, perché l'Italia deve sapere, la politica deve sapere, che quello che rischiamo sono gli elicotteri come in Apocalypse Now, gli elicotteri del Fondo Monetario che possono sbarcare per impedirci di continuare a fare follie. Le follie continuano perché siamo di nuovo a nuovi record, esattamente come ieri. Siamo al rendimento del nostro decennale al 7,8%. Goldman Sachs ha riaggiornato, dopo il rapporto di Barclays dell'altro ieri, primo che ha detto: ragazzi, domani mattina saltano gli spread perché non verranno accettati più come collaterali titoli pubblici italiani alla clearance, cioè la stanza di compensazione del mercato finanziario di Parigi e di Londra. È puntualmente avvenuto, e da quel momento in poi, ha detto Goldman Sachs ieri, sappiate cari investitori che i rendimenti italiani possono andare dal 10 al 20% in una settimana, cioè fare dei nostri titoli pubblici carta straccia, dare il contagio, e allora sbarcano gli elicotteri del Fondo Monetario che ci impongono tutto il risanamento di cui la politica ordinaria non è stata capace. Per questo viva il capo dello Stato che ieri ha forzato ulteriormente la politica, è andato a un'indicazione chiara. Io mi auguro solo che la politica capisca quello che da settimane e da mesi gli chiediamo di fare. Ancora una volta ieri l'associazione di impresa hanno detto al capo dello Stato: metti in condizione l'Italia di avere un governo di emergenza con ampia maggioranza istituzionale, botta al debito pubblico, lo sapete che io preferisco le dismissioni pubbliche e non la patrimoniale, che temo invece arriverà, una serrata stretta ai conti, sapete come fare, lo abbiamo detto mille volte, pensioni di anzianità se si fanno in due anni azzerate con i tetti di vecchiaia, abbiamo un po' di decine di miliardi da destinare a diminuire il saldo e soprattutto a destinare, terza cosa, più crescita abbattendo il cuneo. Queste tre cose servono di tutte le chiacchiere, molto più di tutte le chiacchiere che abbiamo detto, ma di tutto ciò oggi parliamo, ed è questa un po' la particolarità, con un occhio che è rivolto non solo a quello che avviene, perché a voi chiedo, telefonate per farci sapere come la pensate di quello che sta succedendo, se vi fidate del governo tecnico, se lo volete anche voi, se preferireste le elezioni. Guardate che con le elezioni gli spread saltano a livelli per cui altro che, non arrivano gli elicotteri del Fondo Monetario, sbarcano con la portaerei a quel punto per impedirci di fare follie. Tra l'altro oggi tra i giornali internazionali la cosa che mi ha colpito questo è stato leggere sul Financial Times, c'è un non mi aspettavo che fosse il Financial Times a pubblicare un editoriale di Robert Shimpsley che dice: ma non fidiamoci troppo dei tecnici, e lo fa citando anche il professor Monti, e cita la Grecia, dice Papademos in Grecia, e poi dice non lo vogliono, ma forse non hanno tutti i torti, perché se vediamo che cosa ci hanno regalato i tecnici eurocrati con quest'euro che non funziona perché c'è una moneta comune ma non i mercati comuni, e questo rende l'euro così zoppo, forse i tecnici non hanno abbastanza presa politica per reggere. Non mi aspettavo di leggere sui Financial Times una cosa simile. La cosa che mi ha colpito di più stamattina presto sulla stampa internazionale è il Bild che ha i suoi 10 milioni di lettori, tra chi compra le copie e chi se lo fa girare di mano, fa uno di quegli articoli che ci spiegano poi perché i politici tedeschi faticano tanto a dire la verità ai loro lettori, perché dice: ragazzi, ci siamo fatti il conto, cari lettori e contribuenti tedeschi, di quanto in termini di garanzie e interventi diretti a favore dell'Europa ci sta costando sto cavolo di eurodebito. Sono 233 miliardi di euro ai tedeschi. Il conto, devo dirvi, le garanzie non significa che sono soldi spesi, però in teoria soldi spendibili tedeschi. Questi 233 miliardi di euro, di fronte a soli 6 miliardi di euro di taglia alle tasse, perché la Germania taglia le tasse ovviamente in equilibrio, non come noi che le alza, e di fronte a soli 6 miliardi di euro di taglia alle tasse tra 2013 e 2014. Perché il Bild fa due paginoni in cui dice: ma come si può accettare 233 miliardi che ci costano queste cicale europee come i greci, come gli italiani, eccetera eccetera, quando poi spendiamo solo in questi due anni 82 miliardi per le pensioni, 38 miliardi per il pacchetto Ars 4 del welfare, e 38 miliardi soli per il sussidio alle famiglie numerose, e 14 miliardi per altri sussidi invece al welfare. E quindi si fanno il conto e dicono: questa Europa ci costa troppo. Ecco perché poi alla fine l'Europa non è capace di solidarietà. Ma ripeto, in questa puntata la particolarità è che, oltre a sentire voi, noi abbiamo qui in studio a Milano un personaggio che io considero straordinario, perché l'ho incrociato più volte nella vita e devo dire mi sono sempre interrogato su come mi sarebbe piaciuto assomigliargli, non solo fisicamente, perché naturalmente non è brutto come un rospo come me, ma perché è quello che è una delle persone che più nella mia vita ho incontrato a cui si addice. Per chi si ricorda, come in greco viene sempre caratterizzato Odysseus, che è uno dei classici aggettivi che si usano per far tornare i versi nella metrica greca, no? Così come c'è un aggettivo per tutti, e per quello classico per Odisseo è Polutropos, che in greco si potrebbe tradurre testualmente in italiano versatile, colui che da molte parti si volge, esatto. E la voce che avete sentito è esattamente di questa persona, Giorgio Dell'Arti, che è qui anche perché ha scritto un libro, Cavour, Vita dell'uomo che fece l'Italia, che per me, lettore della Stampa, perché sono torinese e io ho letto affettato, per così dire, ed è stato il mio vademecum in tutto questo 150esimo dell'Università Italiana, è un libro straordinario, perché ovviamente per chi come me è cresciuto avendo invece il Cavour di Rosario Romeo come punto di riferimento, questo è un Cavour scoppiettante, perché giorno per giorno nel 150esimo ha fatto toccare con mano a chi magari non ha passato la sua vita a studiare tomi come quello di Romeo, che la crisi, l'Italia è più figlia del caso che della necessità. Nel caso c'era un'intelligenza, ma insomma non era così lucidamente preordinata quello che abbiamo ottenuto. Ma la realtà è che molte delle crisi italiane, e anche queste finanziarie, andare col cappello in mano, sono fin dall'inizio la storia di questo paese, ed è una storia ricorrente. Allora, siccome Giorgio Dell'Arti è Polutropos, però poi perché si occupa di politica, istituzione, eccetera, eccetera, è qui con noi. Io ve lo ripeto: Giorgio Dell'Arti, Cavour, Vita dell'uomo che fece l'Italia, Marsilio, insomma, è un bel tometto, per così dire, perché poi alla fine, mettendolo insieme, sono venute 450 belle pagine, ne vale la pena. E nel avervelo così presentato, io a Giorgio Dell'Arti chiedo: ma in questi giorni tu ci credi? Viva i tecnici, è finita tutta con Berlusconi? Ma i tecnici non esistono in realtà. Quando i tecnici arrivano al punto in cui adesso sta per arrivare Monti, o si trasformano in politici o hanno vita breve, e quindi devono acquisire quella duttilità, quella flessibilità, quella capacità di mediazione, anche se a questo punto da noi non è che bisogna mediare troppo, però bisogna tener conto che i provvedimenti devono passare in Parlamento in ogni caso, e i governi devono essere sostenuti da una maggioranza parlamentare. Siamo una repubblica parlamentare. Hai visto che il quotidiano diretto da Sallusti ha un titolo che dice blitz dei poteri forti, insomma come se alla fine non ci fossero delle ragioni obiettive, quelle dell'Europa che ci guarda e del mondo che ci guarda, ma insomma ci fosse, io che ho sentito mediobanca, no? Io ho sentito l'espressione poteri forti per la prima volta, senza capire che cosa volesse dire, nel 1993, pronunciata da Paolo Liguori, il quale attribuiva la crisi di Tangentopoli in quel momento, all'inizio, ai suoi primi, alle sue prime ore, l'attribuiva ai poteri forti, cioè erano i poteri forti che si volevano liberare della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, e volevano vendere la parte migliore del paese, il famoso Britannia, tutte quelle cose lì, e quindi erano all'opera per rovesciare il sistema ai loro sporchi fini. Questa campagna mi pare che venga ripresa adesso con forza non solo dai giornali di destra, deputati a fare questo istituzionalmente, ma pure dal Foglio, che nonostante il suo schieramento è scelto, conosciamo Giuliano, sappiamo che fa queste Infatti, cose. Il titolo che ha dato Giuliano oggi alla sua nota firmata in prima pagina con Elefantino è un governo tecnico burocratico, no grazie, in rosso. No grazie, no grazie. Ma noi siamo indebitati, quindi mi pare che sia molto semplice il discorso. Siamo dei debitori e come tutti i debitori ci siamo in qualche modo consegnati nelle mani dei creditori. Tu sai meglio di me che la metà di questo debito è all'estero, il mercato globale non permette a nessuno di fare scherzi e quindi eccoci qua. Però è interessante, volevo dire questo, se mi fai dire questo, come che no? C'è un punto interessante nella... e lo fa vedere Folli stamattina nell'editoriale che fa sul Sole, che mi raccorda questo momento storico a uno dei momenti più significativi della vicenda di Cavour, ed è il connubio. Perché Stefano Folli che cosa scrive stamattina? Lo cito a memoria. Dice che potrebbe formarsi, se adesso Monti non riesce a far passare il suo governo per questi contrasti eccetera eccetera, potrebbe Monti cappeggiare un cartello del presidente e andare alle elezioni con una formazione politica in nome del governo del presidente. Questa formazione politica chiaramente sarebbe formata sia dal Partito Democratico e sia da una quota del partito del Popolo della Libertà, che sta e che è d'accordo. Il PDL è già spaccato stamattina, no? Abbiamo visto, già diviso in due, e quindi si realizzerebbe una specie di connubio, che è la stessa cosa che ha fatto Cavour nel 52, quando ha preso l'ala sinistra più moderata del Parlamento, quella di Rattazzi, ha allargato la base parlamentare, quella volta in funzione anti-re, non antimonarchica. E tant'è vero che all'epoca la parte conservatrice, eccetera, eccetera, l'accusava di qualcosa che oggi si direbbe sia l'origine del trasformismo. Esattamente, ma sai, la parola connubio è stata inventata dal capo della destra, che era Revel. Quindi esatto. L'attacco a Cavour. Revel dei Town de Revel, grande famiglia Ottavio italiana Tauer, che ha dato ammiragli. Sì. Revel era un grand'uomo, tra l'altro. Questo Revel che faceva l'opposizione a Cavour, io spero nel libro di avergli dedicato spazio. Si vede, gli hai dato. Effettivamente sono le figure della storia patria un po' purtroppo ingiustamente abbandonate. Ma sai, un altro straordinario di quell'epoca era Solaro della Margherita. Io sono innamorato pazzo di Solaro della Margherita. Per me è una delle figure di conservatori illuminati, insomma, siamo all'altezza di gente come Vilfredo Pareto e Caetano Mosca. No, un reazionario straordinario. La lettura del memorandum di Solaro della Margherita è una consolazione per l'anima, per la nettezza con cui lui sostiene delle tesi per noi persino inascoltabili. Ma però nell'identifica Solaro della Margherita in maniera eterna alcuni ruoli ricorrenti del politico italiano, cioè io penso che si applicherebbero a molti dei parlamentari dell'attuale legislatura esattamente i termini sprezzanti che Solaro della Margherita usa. Senti, sprechiamo altri 60 secondi su Solaro, poi torniamo subito a questi di adesso. Nel 1851 lui scrive un memorandum, era il ministro degli esteri di Carlo Alberto, fatto fuori dalla rivoluzione democratica, diciamo così, dall'arrivo delle istituzioni liberali. Scrive nel 51, dopo l'aver perso la prima guerra d'indipendenza, questo memorandum in cui difende il suo operato, riafferma le sue idee e dice questo: ah sì, voi volete fare lo Stato liberale, eccetera. Va bene, facciamo il suffragio universale, vediamo chi vince. Per cui il suffragio universale diventa la bandiera della destra più reazionaria. Questo no, lo dico anche a beneficio degli ascoltatori, perché con questo intendimento di non avere mai uno schema pronto in testa credendo che sia adattabile a tutte le situazioni. Di non partire mai con un pregiudizio in nessun tipo di situazione. Del resto è capitato di leggere recentemente su giornali della sinistra, eccetera, eccetera, analisi del tipo: beh, piuttosto che andare a votare prima, meglio aspettare un po', bisogna rieducare gli italiani. Suffragio universale è da sempre una lama a doppio taglio. Da sempre una lama a doppio taglio. Adesso qui c'è a un certo punto una dichiarazione di Iosti nel libro, io l'ho riferita, quando a un certo punto loro pensano di allargare un po' la base elettorale, e votava il 2%, meno del 2%. Ci allarghiamo un po' la base elettorale. Iosti, democratico, che più democratico non si può a quell'epoca, come dire comunista, mutatis mutandis, si alza e dice: ma io non voglio questo allargamento del voto, perché vanno a votare persone che non capiscono niente, che non, adesso poi testuale sta nel libro, io la dico a memoria, per gente impreparata, io voglio avere a che fare con persone capaci, con persone che sanno di che si tratta, con persone competenti, che è un po' il tema di oggi questo. Che è un po' il tema di oggi, e che naturalmente però vedo subito, c'è chi mi dice: vergognati. Io ho una base di ascoltatori che è convinta che si dovesse difendere, cioè che insomma, che la base di una coerenza liberale è difendere Berlusconi e il voto del 2008 fino alla fine. Allora, su questo tema, io lo dico a chi ci ascolta, su questo tema che è diventato un mantra per cui bisogna difendere il voto di anni prima fino alla fine, anche se un paese va a picco, io vi invito a riflettere, cari amici, sulla vostra durezza di comprendonio, perché capite, quando si associa il proprio nome a una pagina tanto indegna della storia italiana, indegna, questo è il mio aggettivo, indegna, perché è del tutto inadeguata ai meriti e alle risorse reali dell'Italia, del tutto fuori asse rispetto a quello che un'elementare capacità di previsione di quello che avviene se non fai delle cose, ti porta a questo. Allora, essere associati agli occhi del mondo intero, dagli Stati Uniti alla Germania, dalla Cina all'India, a essere questo, è una roba per me così imprevedibile, nel senso che non avrei mai previsto che Berlusconi potesse ficcarsi in un guaio di queste proporzioni, in un guaio di totale cecità, che la dice lungo sulla squadra che aveva intorno, dei rapporti ormai inesistenti col ministro dell'economia. Allora, questo, se neanche questo vi fa dire che forse è il caso di cambiare il giudizio sul 2008, che cosa dovete aspettare? Dopodiché, cosa pensate, che sono diventato il marxista distribuzionista? Non lo so, avete un criterio di lettura singolare, lo dico perché anche stamattina vedo che, ma ce n'è anche per te. Ah, dice che ma dell'arti era che troppo fa? Comunista pure per Radio 1. Ragazzi, cambiate gli occhiali, però, perché se questa è la maniera con cui leggete le cose, forse vi fa bene leggere il Cavour di Giorgio Dell'Arti per questo punto di vista. Comunque, su questa storia dei tecnici, allora, i tecnici nel fare l'Italia in realtà era più la politica che i tecnici, però anche allora ogni tanto qualche tecnico bisognava metterlo in campo, ma sai, loro erano dei grandi tecnici, erano dei grandi tecnici nel campo che più ci interessa, cioè quello dell'economia, nessuno batteva Cavour. Cavour aveva una stima mondiale, a differenza di Berlusconi. Cavour era un uomo stimatissimo. Metternich disse a un certo punto: c'è un solo diplomatico in Europa e purtroppo non sta dalla parte nostra. Dalla parte era nostra, un Metternich, esatto, già in esilio, che diceva questo, però tanto per dirti. Anche aveva una certa abilità anche nel farsi finanziare dai francesi, inglesi, eccetera, dunque, lì vedi, qui c'è una cosa molto interessante. A un certo punto, dunque, la finanza piemontese era tutta nelle mani di Rothschild, esatto, naturalmente, no? Allora, a un certo punto Cavour pensa che sia il caso di liberarsi di questo primato, di questa supremazia, perché questo poi li strangolava, perché gli teneva la briglia corta, li strangolava con un sistema che io nel libro spiego, ma che adesso è lungo da dire, ma insomma li strangolava. Allora lui va a Londra e cerca di negoziare un prestito con Ambro invece di farlo con Rothschild, e glielo fa pure sapere a Rothschild, però non poteva muoversi da Torino, e allora per fare questo negoziato deve scegliere un tecnico, uno che sappia di che si tratta. E chi sceglie? Proprio quello che abbiamo citato prima, Revelli, il capo dell'opposizione. Capite? Cioè, in nome del paese, il capo dell'opposizione si dimentica per un momento di essere il capo dell'opposizione. Esatto. Per trattare prende la carrozza, esatto, perché a quell'epoca era così, va a Londra e fa una grande trattativa. E non la fa col secondo fine di mettere in difficoltà il governo Cavour, ma per il bene del paese. Per il bene del paese. Esatto. La sinistra lo accusa, gli dice, perché questa era proprio la vigilia del connubio, gli dice: ti stai spostando a destra di nuovo. E la sua risposta è: se avessi trovato un tecnico di queste capacità nel vostro schieramento, avrei scelto lui, avrei mandato lui a Londra. Capite? È un po' come se Berlusconi avesse chiesto, non so, a Bersani di trattare un prestito internazionale per l'Italia. Però Tremonti Visco. Esattamente così. Tremonti Visco in realtà vanno d'accordo, non mi dispiace, io questo da anni lo spiego. Tremonti e Visco, Tremonti ha gettato la maschera ed è tornato quello che è sempre stato. Infatti io non l'ho mai accusato di incoerenza. Tremonti è sempre stato ciò che ci ha fatto vedere, e ciò che la pressione fiscale record e questa stretta terribile nelle procedure, nella lesione dei diritti di noi contribuenti, si deve a queste portazioni. Io lo rispetto perché ho sempre pensato che lui la pensasse così. Sentiamo al volo rapidissimamente almeno il primo ascoltatore, Valentino dalla provincia di Bergamo. Prego Valentino. Grazie signor dottor Giannino, fa piacere molto parlare con lei. Dica. Ascolto sempre. Dunque, adesso che è caduto questo governo e ci sarà un governo tecnico, io mi chiedo questa cosa qua, ma queste persone che andranno adesso hanno la bacchetta magica per risolverci tutti questi nostri problemi? Valentino, guardi, ti rispondo al volo. Innanzitutto non mettiamo il carro di fronte ai buoi, perché prima di che ci sia il governo tecnico deve nascere, dopo le consultazioni di domenica, deve andare in Parlamento a prendere una maggioranza. Quindi non diamolo troppo per scontato, perché nella politica italiana magari qualcuno cambia idea, Berlusconi si fa riprendere dalla parte che c'è nel suo partito, la parte di Exaen, la parte di Ferrara, dice no e preferisce le elezioni. Tra l'altro non si è dimesso Berlusconi ancora. Infatti, è una tecnica singolare costituzionale, perché queste dimissioni annunciate, considerate dal capo dello Stato come operative, in realtà le dimissioni non sono state consegnate. Quindi non diamo per scontato. Però Valentino, qui la questione è un'altra. Siccome nessuno dei partiti delle coalizioni attuali ha in mente di fare quei tre punti da cui il mercato aspetta risposta all'inizio, il problema è di un governo che non tratti troppo coi partiti, anche se tenti di coinvolgere nella formazione del governo, con figure un po' tecniche e un po' politiche, poi vada in Parlamento, lo dica e metta di fronte a tutti, essenzialmente PD e PDL, perché la Lega non ci starà, e Di Pietro l'ha già detto, nella condizione di dire sì o no le risposte che verranno date in Parlamento a queste tre cose per far in un 2 settimane. Non è che hanno la bacchetta magica, e il resto della politica della coalizione italiana, che ha preferito, come il resto della politica europea, mentire a voi elettori e ancora voi non siete nella consapevolezza di quello che stiamo rischiando una botta totale al patrimonio e risparmio di ciascuno di noi, questi 4 mesi. Il conto che vi abbiamo fatto ieri è già costato 50 miliardi, se voi sommate la componente di ciò che ci costa come contribuente per gli aggravi sugli oneri del debito pubblico, alle banche italiane in termini di ricapitalizzazione, minori utili, minori dividendi, minori garanzie pubbliche, maggiori costi sulla provvista a breve di capitale sul mercato obbligazionale all'ingrosso, di quanto che costa a voi come clienti delle banche stesse, come famiglie per i mutui, come imprenditori se volete prendere un qualunque tipo di impiego perché avete un'idea per la vostra impresa, e infine quello che costa ciascuno di voi percettore di reddito da patrimoni immobiliari, perché più sale lo spread più scende l'indice di borsa e la capitalizzazione di borsa. Se sommate queste 4 cose, il conto ve lo abbiamo fatto ieri, sono già 50 miliardi. Questo è il costo delle menzogne, del non essere adeguatamente all'altezza di ciò che significa essere un politico oggi in un mondo globalizzato. Avete sentito? L'Italia è nata grazie al fatto che si mandavano i tecnici, anche i capi dell'opposizione, a fare le migliori condizioni per strappare un cambio di finanziamento del debito pubblico italiano. E anche allora forse c'era un po' più di intelligenza rispetto a oggi. Ci qui tornati a commentare le vicende del neo senatore a vita Mario Monti, indicato dal presidente in questa singolare procedura di dimissioni già considerate consegnate dal Quirinale, in realtà mai consegnate dal presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio che viene presentato dagli stessi giornali vicino al centrodestra come favorevole all'ipotesi di un governo Monti, ma un PDL molto spaccato sono stati ieri i cattolici, Formigoni per primi, gli scaioliani, Pisano a dire chiaramente no, elezioni anticipate, sì al governo di ampie intese. Anche Lupi è dovuto tornare sui suoi passi rispetto alle impostazioni di questi ultimi anni, e ha detto anche lui sì al governo istituzionale. Cicchitto aveva detto no a qualunque pasticcio, gli ex AN dicono no a qualunque pasticcio, però il governo tecnico ha l'espressione di quella specie di brivido alla schiena rappresentato da banchieri, economisti, la negazione del suffragio universale. E il suffragio universale, abbiamo visto prima con Giorgio Dell'Arti che è con noi, è un po' una spada a doppio taglio, evocato a volte dai conservatori e tal'altra temuto dalle sinistre, quando in realtà nella storia dovrebbe essere l'esatto opposto, perché il problema è che a volte i politici, troppo convinti di rappresentare a prescindere dal consenso, quando lo perdono dicono beh, il popolo è il bue, e se non mi vota vuol dire che il popolo è bue, quindi il suffragio universale ha qualche limite. Sentiamo ancora come la pensa qualche ascoltatore, poi torniamo a sentire Giorgio Dell'Arti. Ma vi prego, se non lo avete fatto sulla stampa, comprate e divoratevi questo Cavour, Vita dell'uomo che fece l'Italia Italia perché è scritta domande e risposte. Giorgio Dell'Arti è un temibile gattone di quello che, se anche non la pensi come lui, trova il modo di imbonirti e poi ti ranfa e ti zampa quando è troppo tardi. Questo perché le tecniche con cui fa tutte le cose che ha fatto, questo è l'uomo che si è inventato il foglio dei fogli sul foglio, il venerdì di Repubblica, è una specie di macchina da guerra e lavora a prescindere dalle ideologie, non so se avete capito che ho citato apposta le due testate contrapposte. E per questo, perché? Perché è molto bravo e io lo invidio per questo. Comunque sentiamo Moreno da Lucca, che dice Moreno da Lucca? Buongiorno dottor Giannino, condivido al 100% la sua introduzione che ha fatto stamattina, anche quello che lei ha detto ieri sera alla trasmissione Linea Notte. E dicono che io sono troppo un po' terrorista invece quando dico queste cose, ma no, ci siamo dimenticati delle sberle che abbiamo preso in passato, perché riprenderle? Secondo me lei ha fatto una descrizione della situazione che è reale al 100%. Io sono favorevole al governo Monti, che cominci subito, anche domani, che duri non un anno e mezzo fino alle prossime elezioni, ma anche 10 anni. Lei vede che è per la sospensione del suffragio universale, Moreno. Grazie, sentiamo ancora Marco da Prato. Come la pensa Marco? Buongiorno Oscar. Sì. Grazie dell'opportunità. Sì. Ma io penso, il titolo che quando ho chiamato è stato l'apocalisse della politica italiana. Sì. Guardi, noi stiamo pagando adesso un conto che avevamo pagato a metà nel 92. Nel 92 è stato fatto pagare il conto a due soli commensali, ma alla tavola c'erano tutti. Adesso il conto arriva anche per gli altri. Quindi è un problema di classe politica in generale. Noi non abbiamo più credibilità, i mercati non credono ai nostri politici, tutti messi insieme, non ci credono più. Ma un investitore cinese che deve investire i risparmi dei cinesi, ma si immagini lei che compra i bot. Marco, io lo so perché lei sta ce l'ha col cinese, perché stando a Prato dice: ma guarda un po' cosa mi tocca dire, mi tocca fare la figura di fronte anche ai cinesi che insomma si sono ben radicati a Prato. Grazie, sentiamo Carlo dalla provincia di Milano. Ma intanto potrei osservare così en passant che il suffragio universale è il peggior sistema di voto, fatta eccezione per tutti gli altri finora provati. Esatto. Però io sono d'accordo con lei. Lei lo sa che il buon vecchio Hayek, mio punto di riferimento, avanzò una proposta quando fece The Constitution of Liberty, che è un libro straordinario, naturalmente non lo legge nessuno in Italia, e disse: ma forse sarebbe meglio scegliere dei rappresentanti di alcune classi di età e alternarli nella rappresentanza parlamentare, così abbiamo anche il bilancio intergenerazionale, perché prendiamo gli anziani che faranno solo gli interessi dei pensionati, poi li prendiamo più giovani la prossima volta, facciamo solo interessi ai giovani. Beh, persino il metodo Hayek, sprezzante verso il suffragio universale e i suoi limiti, in Italia almeno ci aiuterebbe a risolvere posso dire, e come no? Dunque no, è interessante. Carlo, poi torniamo, non quando, ti abbiamo espropriato la parola. No, quando si discuteva il sistema elettorale nel 48 e Cavour scrisse il sistema elettorale, la sinistra, i democratici, volevano che il Parlamento venisse eletto dai consigli comunali e non dal voto, credo, perché sennò naturalmente c'era una ragione in questo, ma io penso che questa idea forse si potrebbe riprendere oggi in un ipotetico saggio che potremmo scrivere, che si intitola Ricominciare da capo. Forse si potrebbe fare eleggere il Parlamento dai consiglieri comunali, esatto, che almeno hanno, scegliendo all'interno di che almeno hanno un'esperienza amministrativa, no? Perché voglio dire, la Carlucci è entrata in Parlamento che veniva dalla Trigusio. Mo ha fatto tre legislature, beh, insomma, non povera, mi attaccare alla Carlucci. Povera stella, non è che però se mi attacchi la Carlucci, allora che ci penso, è diventato berlusconiano. Vedete che come anche qua non bisogna mai si dire, perché allora Carlo, l'abbiamo interrotta, ma stavi dicendo. Beh, innanzitutto grazie, perché essendo io un consigliere comunale mi sento. No, però l'unica cosa su cui non sono d'accordo è sulla provocazione di Apocalypse Now. Perché? Secondo me l'Italia è un paese solido. Vero. Ha detto ieri Giavazzi. Vero. Secondo no, me... non perché l'ha detto ieri Giavazzi, se mi permetti, no, ma perché no, ha i fondamentali, insomma. Comunque, no, è un paese solido. Noi siamo più americani che vietnamiti. Abbiamo ricchezza, ce la possiamo fare e secondo me... Carlo, stai attento oggi... perché se siamo più americani che vietnamiti ti ricordo che perdiamo alla fine, cioè non so se sai com'è andata, quindi io figurati vado in giro con la bandiera degli Stati Uniti, però in quella vicenda lì, Apocalypse Now, è proprio per quello dico lo smarrimento, perché chi arriva dicendo noi siamo la civiltà eccetera eccetera e poi lì si trova tra i fumi a perdere il riferimento, tant'è che la canzone è la perdita del riferimento alla civiltà occidentale, la famiglia, il padre, ma questa roba qua, lo smarrimento della vita e della morte. L'Italia che si trova a essere fonte di contagio, Carlo, non è che ha smarrito i suoi fondamentali, è proprio fuori posto rispetto ai suoi fondamentali, al fatto che siamo il secondo paese per vocazione manifatturiera e il terzo per volumi e valori dell'industria europea, e il fatto che siamo i più patrimonializzati. È proprio per questo che la politica ci ha portato in un Vietnam tenendo gli occhi chiusi e non sapendo far di conto. Carlo, quindi secondo me la pensiamo allo stesso modo. Sì, ma qualche componente di responsabilità però questo c'è stato anche allora, perché forse persino nel conto che Garibaldi ce la facesse. Ma sai, no, qui da questo punto di vista è interessante questo aspetto, credo. Quando è arrivato Cavour era un paese fermo. Cioè, prima della prima guerra d'indipendenza, nelle casse di Carlo Alberto c'era un avanzo di 70 milioni, un avanzo di cassa. Cioè, aveva i soldi, non sapeva cosa farci. E poi per le guerre, però, il Piemonte si indebita, e di qui la polemica dei meridionali che dice: no, il Piemonte siete arrivati pieni di debiti, pieni di tasse e ci avete rovinato. Il Piemonte si indebita per le guerre e anche per sviluppare il paese. Per sviluppare il paese. Tutte e due le cose contemporaneamente, perché Cavour è l'uomo del debito. Ma l'uomo del debito da un lato per fare il risorgimento e dall'altro per far crescere il paese. Nel 48, quando è cominciata l'avventura, il Piemonte aveva poche decine di chilometri di ferrovia, non era neanche il più strutturato dal punto di vista dei treni, diciamo, del traffico ferroviario, e alla fine del decennio era in testa, cioè aveva quasi 1000 chilometri, 900 chilometri di binari. Sono cose che si fanno solo indebitandosi. Nell'ultimo anno prima di morire, Cavour e Bastoggi sostennero la tesi che si potevano indebitare tranquillamente perché il paese cresceva e crescendo avrebbe fatto fronte ai suoi impegni. È un discorso estremamente moderno, no? Contemporaneo. Sentiamo come la pensa Antonio da Milano. Buongiorno, buongiorno, sono Giannino. Dica. Innanzitutto i complimenti sono d'obbligo. No. Ascolta, a prescindere dalla retrospettiva, io guarderei a quello che si può fare per risolvere. Sì. Sento dire che abbiamo tanti soldi in tasca. Sì. Sento che tantissima gente, tantissimi colleghi, tantissimi amici riversano i propri soldi per sentirsi tranquilli sui conti deposito che hanno un fondo tutela per 103.000 euro. Se questa enorme massa di denaro fa in modo di avocarla a sé, creando ad hoc... Chi fa in modo? Il governo, lo Stato Italia. Fa in modo di rivolgersi, senza creare vincoli, invitando. Ah. Io non credo che ad un invito così fatto non risponda nessuno. E a quel punto i mercati vediamo dopo se ci servono ancora, in che misura noi dobbiamo essere. Ho capito, Antonio, io ti rispondo. Io ho scritto sul Gazzettino di oggi, è uscito un editoriale, per esempio, critico, lo ammetto, vado contro corrente, ma stiamo contro, critico contro la lettera che l'imprenditore Melani ha scritto su Corriere della Sera, invitando tutti a sottoscrivere BTP e BOT, cosa che è piaciuta molto alle banche. Le banche stanno organizzando un pezzo di BTP Day in cui non si fanno pagare le commissioni, dicono quel giorno, se vuoi comprare titoli del debito pubblico. Io ho scritto un editoriale dicendo io che consiglio la gente nell'amministrazione del loro portafoglio di risparmio, non posso dare un consiglio riservato ai miei clienti che va in una direzione e scrivere editoriali di appello patriottico nella direzione opposta. E spiego perché secondo me un governo deve convincere gli italiani, come il resto del mercato, a comprare titoli del debito pubblico se sono saldi sul mercato e sono non troppo rischiosi, come sono diventati invece al limite della carta traccia, visto che non vengono accettati come collaterali. Il governo deve fare quello per convincere il risparmiatore a comprare i titoli del debito pubblico, altrimenti io sono obbligato a dire a tutti i risparmiatori italiani, proprio perché ho rispetto di come hanno lavorato per mettere da parte il loro patrimonio, che oggi comprare un titolo del debito pubblico significa questi spread che vanno sideralmente più su e possono andare ancora molto più su, anche se non per troppo tempo, perché poi veniamo sospesi dal mondo, però significa comprare titoli che poi, se vuoi liquidare sul mercato secondario perché devi rientrare, ci perdi una parte rilevante del capitale. Io questo, di chiederlo agli italiani per patriottismo, non me la sento. Voglio un governo che dica agli italiani che possono tornare a comprare titoli del debito pubblico perché sono sicuri e danno un rendimento che a quel punto non è molto elevato, perché se è sicuro non può dare un rendimento elevato, ma che sono sicuri. Questo credo che sia patriottismo dal basso, prendere a calci chi invece ci costringe a pensare di essere patriottici perché ci dobbiamo rimettere altri soldi dopo tutti quelli che ci prendono. Ma porca miseria, è possibile che voi stiate aderendo in massa alla patrimoniale così? Perché ve la beccherete, vi state consegnando armi e bagagli a uno Stato che non solo vi tassa record anno per anno sul conto economico, ma che vi sta convincendo che bisogna tassarvi ancora di più. Io francamente dico che piuttosto che il fallimento posso arrivare a crederci che voi la pensiate così, ma non che vi consegnate spontaneamente a questa roba qua, alla quale bisognerebbe civilmente ma fermissimamente resistere. Io la penserò sempre così. All'epoca dell'Arti com'era stata stazione poi nel Piemonte di Cavour? Beh, Cavour tentò di fare la tassazione personale, di introdurre una specie di IRPEF, e trovò una resistenza fortissima. Assoluta. Però lanciò un paio di prestiti diretti solo al pubblico, non intermediati da Rothschild e neanche da Ambra. Andarono abbastanza bene. Abbastanza bene. Andarono c'era bene, un'adesione, in realtà. C'era un'adesione patriottica. Beh, ma il mio Piemonte. Lui, sai, faceva i prestiti. Con una piccola proporzione per progressione, perché per loro la progressione era socialismo, certo. Non c'era discussione. Bei tempi. Cioè una piccola progressione del 2% sui proprietari dei palazzi, la flat tax, e calcolando le finestre, sai come facevano, no? Calcolando quante finestre c'erano. Era l'eredità delle vecchie imposizioni medievali, perché tutte queste cose qua erano le vecchie imposizioni medievali, finestre, quelle sulle finestre, carrozze, i focati con le carrozze, eccetera. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Mi piacerebbe cantarla, ma teniamola bassa fino alla fine della chiusura della trasmissione. Sentiamo come la pensano ancora altri ascoltatori sul governo tecnico, la piega che sta prendendo Raffaele da Cosenza. Prego, rapido, Raffaele. Buongiorno, vorrei fare una critica sul provvedimento sulle pensioni presente nella legge di stabilità. Ma che provvedimento c'è sulle pensioni, scusa? Allora, da che so io, nel 2026 si dovrebbe andare in pensione a 67 anni. E io per questo ti interrompo, perché questa è una trappola dell'informazione, cioè vi stanno dicendo che c'è una misura nuova nel disegno di legge di stabilità, nell'emendamento, e quella è semplicemente la data che si deduce dall'applicazione dei parametri automatici di adeguamento della vita reale, del tetto, alle aspettative di vita, che è conseguente alle misure già adottate in passato, ed è ricordato in quell'emendamento, ha un unico scopo, per me mettere un dito nell'occhio dei tedeschi che su la vecchiaia, perché stiamo parlando del tetto di vecchiaia, arrivano a 67 anni un po' dopo del nostro 2026. E guardate, non c'è nessuna nuova misura. Comunque, prego, Raffaele. Io ritengo il provvedimento inefficace, non so quando è stato fatto questo provvedimento, ma lo ritengo inefficace, perché col sistema contributivo nel 2026 prenderemo all'incirca il 50% dello stipendio. No, anche questo, Raffaele, guarda, questa è un'altra roba che prendete dai giornali tale e quale, e mi tocca dire che, siccome uno se fa girare i numeri, questa roba del 50%, che è la cosa che noi siamo abituati a dire da sempre del contributivo, e sarà sicuramente più basso il montante, ma non il 50%, perché bisogna rifarsi i conti. Comunque, prego, Raffaele, perché sennò ogni cosa che dici sembra che ti monta addosso. Ma è solo per dire che a volte bisogna che diffidiate di me per prima e dei miei colleghi. Prego, Raffaele. No, vabbè, quindi dicevo, siccome vabbè, 50% o qualcosa di più dello stipendio, siccome di fatto nessuno penso che potrà vivere con poco più del 50% dello stipendio, di fatto saremo tutti obbligati a lavorare il più possibile. Oh. Quindi va anticipato semmai il provvedimento. Oh. Lei mi ha smentito su tutti. No, io non l'ho smentita, io l'ho smentita sulla legislazione. Ma in realtà io sarei per un sistema libero in cui con sistema contributivo ciascuno decide e sa a ogni giorno quanto sta maturando se va in pensione. Poi decide. Però la verità vera è che sui trattamenti quelli universali, sui diritti universali, io sono per alzarla. E sono perché questa storia della pensione di anzianità che l'onorevole Rosi Mauro della Lega ci ha regalato come la grande battaglia per il futuro della Lega, io spero che molti miei amici che ho sempre stimato e sempre invitato e continuerò a farlo, aprono gli occhi, perché se credono su questo di interpretare l'Italia del domani produttiva del nord, insomma, mi sembra non una gran bella battaglia. Rapidissimo ancora Lorenzo da Treviso. Prego, Lorenzo. Da Trento, buongiorno. Da Trento, hanno sbagliato. Non si preoccupi. Pensiero molto rapido. Berlusconi dimissionato dal mondo. Governo tecnico alle porte. Non crede che, Giannino, il governo tecnico sancisca anche il fallimento di noi elettori? Ma che dirvi, io non è che posso incolpare gli elettori, perché nel 2008, come una volta sì una volta no, avete scelto uno e l'altro. È la politica che poi deve interpretare i fatti. Cioè, aveva il mito degli elettori Cavour? Sì, Ecco, sì. Ce l'aveva il micro. Sì, sì, che Cavour credeva alle elezioni, però non credeva al suffragio universale. Oh. Credeva che, perché vedi, a quell'epoca il diritto di, il voto non era un diritto, esatto. Era una funzione. Era una funzione. Era una funzione, quindi, ma ci pigliano un po' per conservatori fottuti se continuiamo a ripetere. Beh, però bisogna riflettere su questo, cioè il voto è un potere che noi abbiamo e quindi dovremmo sapere di che si tratta quando lo esercitiamo. Ed è un potere temibile se i mercati oggi come oggi pensano che darci una campagna elettorale significa che l'Italia farebbe esplodere il mondo o quasi. Comunque la borsa ha virato in positivo nel frattempo e bisogna capire se, come ha ragione chi dice che in giornata la borsa bisogna aspettarsi anche una specie di giudizio implicito verso Monti. Io continuo a pensare che le borse daranno il giudizio vero quando sentiranno, sì, ciò che Monti vuole fare, non il suo nome e, certo, cognome, e quando capiranno se è in condizioni di fare. È lì che bisognerà vedere se le condizioni migliorano davvero. Non vi fate fregare altrimenti, perché attualmente è solo l'incertezza che prevale. Io posso solo dirvi, dovete comprare Legge di Giorgio Dell'Arte Cavour, Vita dell'uomo che fece l'Italia, Marsilio. Io ringrazio Giorgio Dell'Arte, abbiamo parlato poco del libro ma molto dell'Italia, forse a Cavour sarebbe piaciuto così. Vabbè.